Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note di Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet meine Freund, la cantata 147, una delle più note di Johann Sebastian Bach, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano e buongiorno e buon pomeriggio a Giovanni Maria Frick. Grazie, buongiorno anche professore da parte mia. Giovanni Maria Frick, cavaliere, professore di diritto penale alla LUISS di Roma, già giudice della Corte Costituzionale, presidente della Corte Costituzionale, e è qui con noi oggi. E perché questa musica di Bach come introduzione? Ma non per una speranza dell'aldilà di fronte ai problemi che ci troviamo di fronte, ma perché la musica di Bach mi ha sempre accompagnato nel mio percorso umano prima che culturale. Gesù rimane la mia gioia. Gesù rimane la mia gioia, nonostante tutti i problemi enormi. Infatti, problemi enormi che magari vedremo piano piano in questo nostro dialogo. Giovanni Maria Frick è essenzialmente un giurista di formazione giuridica, laureato alla Cattolica di Milano, mi sembra, in anni non sospetti, quando si studiava ancora diritto. 1962, dopo essere entrato nel 1958, quindi, 4 anni giusti. Quindi prima del 68, sì, non gli è capitato la sventura che è capitata a me di fare l'università nel 1968. No. E quindi laureato appunto alla Cattolica di Milano. Come mai la scelta di occuparsi di discipline giuridiche, di diritto? Non ho pensato di fare l'ambasciatore, il pompiere, no, il diplomatico? No, l'alternativa tra la Cattolica e fisica. Un po' lontani l'uno dall'altra. Infatti. E devo dire, grazie forse al consiglio di mio padre, ho preferito scegliere la formazione umanistica e giuridica e mi è andata bene. Quindi ha cominciato facendo il professore di diritto? Ho cominciato facendo il magistrato. Ah, il magistrato. Ho fatto 11 anni giudice, pubblico ministero, ho fatto un po' tutta la trafila, perché sono stato, non dovrei dirlo, ma primo del mio concorso, entrando in magistratura. E ho lavorato per 11 anni come giudice. Poi ho vinto il concorso a cattedra all'università in diritto penale. Mi interessava molto il diritto penale dell'economia, non per fare economia di diritto penale, come qualcuno sostiene, in materia economica. Mi interessava molto il diritto penale dell'economia e ho deciso appunto di passare dall'altra parte della barricata, da giudice a professore e contemporaneamente ad avvocato. Ad avvocato e anche collaboratore del Sole 24 e Ore. E anche editorialista anni. Del Sole 24 Ore, perché il tema del rapporto tra diritto ed economia, tra patologia economica e strumenti giuridici per affrontarla, in quel momento era d'attualità. Erano gli anni Ottanta. Si cominciava, sì, io sono entrato in magistratura nel 64, sono andato in cattedra nel 75 e fino al 96, vado a blocchi di 10 anni, e fino al 96 ho lavorato, fino alla clou di Mani Pulite, ho lavorato proprio al diritto penale dell'economia come avvocato e come teorico. Ce n'era da lavorare in quel settore? Ce n'era talmente tanto e soprattutto si rischiava di farlo prendere alla lettera da parte degli utenti, che nel 96 ho deciso di piantare lì, di andare a fare il ministro della giustizia con Romano Prodi. Perché lo slogan che avevamo col mio maestro, il professor Crespi, con Cesare Pedrazzi, un altro maestro, ci occupavamo noi in pochi intimi del diritto penale dell'economia, era un buon diritto penale dell'economia fa economia di diritto penale, cioè viene usato come estrema ratio, ma venne preso la lettera da troppa gente che pretendeva, e quasi ci riuscì, cioè a cancellare il diritto penale dall'economia. Cioè un diritto che diventava strumentale ad altri fini. Guardi, diciamo, c'è il coltello a doppio taglio. Il diritto penale in materia economica è sempre stato ancillare, come diciamo noi tecnici, servente, fino a quando, con l'esplosione di Mani Pulite, si cominciò a capire che attraverso la norma sul falso in bilancio, ad esempio, si poteva scoprire dove erano finiti i soldi dell'evasione fiscale o da dove prendere i soldi per pagare la corruzione. E allora i pubblici ministeri dilatarono la norma sul falso in bilancio. Era sbagliato, ma è stato altrettanto sbagliato svuotarla completamente dall'interno, come si fa col barattolo della Nutella quando arriva alla fine, per privarla di ogni efficacia. Cioè, si è presa alla lettera quel nostro insegnamento, che un diritto penale dell'economia deve fare economia di diritto penale. E a quel punto ho preferito passare dall'altra parte della barricata, se non altro per evitare che sulla mia tomba si scrivesse: fece del diritto penale dell'impresa un'impresa di diritto penale. Ecco, quindi passando dall'altra parte si è trovato di fronte alla necessità di fare delle riforme. Fare delle riforme in questo paese è quanto mai difficile. Come verrebbe voglia di dire non è difficile, è inutile, ma sarebbe ripescare frasi sgradevoli del passato. Io credo che, per esempio, in materia di riforme della giustizia qualcosa siamo riusciti a fare. Il giudice unico, le sezioni stralcio, che hanno eliminato l'arretrato quando io fui ministro della giustizia. Il guaio poi si è riformato da capo completamente. Le videoconferenze, cioè il modo di far partecipare i boss della mafia ai processi penali attraverso il video per evitare che girassero l'Italia. Certo. Ecco. Quindi qualcosa si è riuscito a fare, ma poco, molto poco. Ecco, poi è arrivata la nomina a giudice della Corte Costituzionale. Un lavoro incompatibile con tutti gli altri. Certo. Quindi... Nel frattempo c'era stata una breve sosta a Bruxelles per occuparmi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, un posto al quale venni poi sostituito da Rodotà quando io venni chiamato alla Corte Costituzionale. Andò il professor Rodotà al mio posto. Arrivando alla Corte, la prima cosa che feci salì sul terrazzo. La Corte è quel bellissimo palazzo, a fianco del Quirinale, con gli angeli che suonano la tromba. E salì subito sul terrazzo, che mi aveva sempre colpito. Un panorama meraviglioso. Un panorama che tra l'altro mi fece capire cos'è la Corte. Una realtà strettamente collegata al Quirinale, due organi di garanzia che si tengono, sufficientemente lontana, non sopra, lontana dal Parlamento, dal Senato e dalla Camera, da Palazzo Chigi e da San Pietro. Cioè quel distacco necessario alla laicità di questo Paese e della Costituzione che lo garantisce, per cercare di svolgere un compito di controllo, di garanzia e di attuazione della Costituzione. Ecco, ma non è un po' disarmante trovarsi in un organo che ha solo il compito di bloccare, di dichiarare incostituzionale delle cose, quindi non di fare, ma di impedire di fare qualcosa? Senta, prima di fare bisogna impedire di fare le cose sbagliate. E Dio ci guardi da una Corte Costituzionale che potesse fare, perché non avendo una legittimazione, una rappresentatività di elezione democratica, saremmo in mano veramente al governo dei giudici. Allora i giudici devono eliminare ciò che non va, in questo caso eliminare le leggi che sono in contrasto con la Costituzione. Tra l'altro mi stupisce chi si indigna o si lamenta che la Corte Costituzionale va contro il Parlamento, e non è soltanto qualcuno adesso, e lei può capire a chi mi riferisco, ma era già ai tempi della Costituente, quando Togliatti da un lato e Croce dall'altro lato dissero: ma siamo matti ad affidare a 15 personaggi, per quanto saggi, il compito di criticare il Parlamento. Le Corti Costituzionali sono nate proprio per criticare non solo il Parlamento. Di criticare, ma anche di rendere inutile un lavoro del Parlamento. Certo, infatti è un lavoro profondamente politico in senso altro, oltre che giuridico, quello di dire: questa legge va contro la Costituzione, metterla via, lasciando che poi sia il Parlamento a occupare lo spazio vuoto con un'altra legge. Ecco, la Costituzionale è conosciuta soprattutto per questo, forse poco conosciuta nel suo lavoro, nel suo impegno, nella sua quotidianità, in un certo senso. Ma se lei, per esempio, pensa alla situazione drammatica delle carceri, la situazione che la Corte Europea di Strasburgo ha censurato aspramente ancora molto recentemente, il sovraffollamento delle carceri, e va a vedere le sentenze dell'ultimo quindicennio, ventennio della Corte Costituzionale, si rende conto che ha fatto un lavoro pratico molto concreto, assicurando giustiziabilità ai diritti fondamentali di chi sta in prigione, eliminando gli automatismi nell'applicazione della pena, cercando di garantire nei limiti del possibile la dignità a cui ha diritto anche chi sta in galera. Naturalmente quello che può fare è solo in chiave negativa, perché non ha un compito costruttivo. È già qualcosa, appunto, evitare gli errori, però questa prospettiva la Corte ha anche un compito di interpretare la Costituzione. Certo, e proprio per quello a me sembra che la sua composizione sia ragionevolmente saggia. C'è un'unica cosa che non mi piace: nella Corte i giudici sono 15, c'è una donna sola, ma è un vizio che si ripete, perché se lei pensa che recentemente nella nomina dei 10 saggi da parte del Presidente della Repubblica di donne non ce n'era nessuna, e il Presidente si è scusato che la fretta lo abbia indotto a questo, pur essendo lui ad aver fatto uno dei discorsi più interessanti e più belli sulla parete di cristallo che impediva alle donne di avere un rapporto con la realtà, si rende conto che anche nella Corte c'è qualcosa che non funziona, perché c'è una giudice sola. Detto questo, però, la composizione mi pare molto saggia, perché è una composizione in cui è presente una componente eletta dal Parlamento, una componente nominata dai giudici e una componente nominata dal Presidente della Repubblica. Io sono uno di quelli che venne nominato da Ciampi, proprio per assicurare che l'esperienza giuridica, o professori o magistrati di Cassazione, non sia soltanto quella, ma sia anche un'esperienza, diciamo, politica in senso alto. Ecco, non le chiedo di rivelare dei segreti dei lavori della Corte, ma ci sono delle correnti, delle fazioni, si formano degli schieramenti all'interno. Senta, io ormai sono fuori da 4 anni, ma la mia sensazione è che all'interno della Corte si crei poi, nello stare insieme, una gran dimensione di collegialità, di confronto, qualche volta di scontro. Ci sono delle sentenze che vanno sul filo di una maggioranza, ma sono rare, nella maggior parte dei casi si riesce ad arrivare a trovare delle soluzioni condivise. Ecco, in questa prospettiva la Corte è uno degli organi che è nominata per tempi più lunghi, giudice è nominato per 12 anni. Sì, per 9 anni. Per 9 anni. Originariamente era nominato per 12, poi si è scesi a 9, anche perché 12 sono un po' troppo, tanto vorrebbe arrivare a vita. E questo mi fa venire in mente che l'altro organismo di garanzia è il Presidente della Repubblica. Della Repubblica, che è nominato per 7 anni. Nel caso della Corte c'è il divieto della rielezione, nel caso del Presidente non c'è. Provvidenzialmente, però, forse in questa volta. Attenzione, lo ha detto molto bene il Presidente Napolitano nel suo discorso di insediamento: non c'è un divieto e quindi non c'è un golpe nella rielezione, ma c'è una eccezionalità, perché la durata settennale del mandato e il divieto di sciogliere le Camere nell'ultimo semestre, semestre bianco come viene chiamato, sono l'indicazione più evidente che i costituenti pensavano a una non rielezione. Allora, non è vietata, e quindi in un momento di crisi come questo può aversi una rielezione, ma questo denota la gravità della situazione in cui ci troviamo. Ecco, sicuramente entrando un po' nella prospettiva anche del Presidente, a cui tutti gli italiani devono comunque qualcosa, ecco, forse le divisioni del pontefice qualche mese fa hanno portato il Presidente a dire: beh, posso accettare, tanto posso anche dimettermi, l'ha fatto un Papa. Guardi, non sono dimissioni quelle del pontefice, è l'unico monarca assoluto che non è che si dimette, abdica. Ecco, se dovessimo usare un linguaggio umano. Certo, la celerità con cui la Chiesa e lo Spirito Santo hanno saputo sbloccare la situazione dovrebbe essere una lezione abbastanza amara per noi. Così con l'altra lezione che ci è stata data e che Napolitano ben aveva capito. Una delle doti più grandi di una persona è avere la consapevolezza dei propri limiti, il senso dei limiti. A me l'abdicazione di Benedetto XVI mi è sembrato un qualcosa di profondamente umano e di profondamente educativo. Poi, come ex allievo dei gesuiti, sono felice che sia arrivato un Papa gesuita. Un Papa gesuita che è completamente diverso. È un po' meno giurista, forse era più giurista Benedetto XVI. Sì, io ricordo, ho avuto, quando ero Presidente della Corte Costituzionale, un'udienza che ebbi da Benedetto XVI e nella quale gli dissi che ci sarebbe piaciuto che una volta venisse a rivedere casa sua, il Palazzo della Consulta, che era un suo tribunale, e cominciamo a parlare di diritti. Così come il Quirinale era appunto la sede dei papi. Incontri. Ancora con le note di Johann Sebastian Bach, con la cantata 147, Jesus bleibt meine Freund, Gesù rimane la mia gioia. Riprendiamo il nostro incontro con Giovanni Maria Flick, professore emerito di diritto penale alla LUISS di Roma, presidente emerito della Corte Costituzionale, della quale è stato presidente dal 2008 al 2009 e giudice per i 9 anni rituali in cui sono giudici i giudici della Corte. Abbiamo concluso la prima parte del programma ricordando appunto l'abdicazione, la rinuncia di sì. Papa Benedetto XVI e l'arrivo di questo Papa Francesco, diciamo, Papa Gesuita, ecco, ha studiato dai Gesuiti, Giovanni Maria Flick, un ricordo da studente dai Gesuiti? Guardi, io ho studiato dai Gesuiti a Genova, tranne 2 anni di carcere duro, come li chiamo io, dai salesiani, perché ero stato bocciato in terza media in latino, matematica e ginnastica, che dimostrava proprio il mio totale disinteresse per la scuola. E quindi 2 anni di carcere duro in collegio dai salesiani e poi il ritorno dai gesuiti. E poi la cattolica a Milano, l'Augustinianum, col giuramento antimodernista, allora si urlava, e cioè con l'impegno a non usare gli strumenti culturali che l'università mi dava per sostenere la eresia modernista. Fatto è che questo tipo di formazione, pragmatismo salesiano, logica gesuita, approfondimenti in cattolica, è servito a fare di me un cattolico adulto, probabilmente l'esatto contrario di quello che si riproponeva, imponeva il giuramento antimodernista. D'altra parte, in compagnia illustre con altri che con me erano in pensionato nel college della cattolica. In quegli anni. Lo stesso Romano Prodi. Roberto Ruffilli, Tiziano Treu, e potremmo continuare. Poi la situazione è un po' cambiata quando c'è andato Capanna, ma insomma, ecco, sì, Capanna poi è arrivato quando io ho fatto l'università, poi nel 68, quando sono cambiate molte cose, ecco. Ma proprio su questa essere cattolici adulti, ecco, il mondo cattolico soprattutto in questa fase politica sembra un po' appannato, sembra un po' in secondo piano. Per quanto mi riguarda, io ho verificato, ed è abbastanza interessante nella mia esperienza culturale, ho avuto la fortuna di non dover fare come Baldovino del Belgio. Lei sa che il re del Belgio dovette dimettersi per un giorno perché non voleva firmare una legge che riteneva contraria alla sua coscienza di cattolico. Io nei 9 anni di lavoro che ho fatto alla Corte non ho mai avuto il problema di trovare in contrasto i valori costituzionali e i valori cristiani. Anzi, ho la sensazione che i valori costituzionali e i valori cristiani siano sulla stessa lunghezza d'onda. Penso al rapporto tra la solidarietà e la carità. Solidarietà nella logica laica, carità nella logica cristiana. Penso alla laicità della nostra Costituzione, che è un valore fondamentale anche se non è esplicito, ma la Corte lo ha sottolineato, cioè il valore del rispetto reciproco, del dialogo, della tolleranza. E che è un po' abbastanza lontano dai valori non negoziabili che qualcuno usa come delle clave per darli in testa all'avversario. Ecco, però una presenza esplicita dei cattolici non la riterrebbe utile in una fase di complessità come quella attuale? Non c'è dubbio che, questa è un'esperienza personale, mi sembra di poter dire che sono d'accordo con Pietro Scoppola quando sottolineava con Leopoldo Elia che la presenza di un partito cattolico aveva evitato alla Chiesa di doversi esporre in prima linea quando la Democrazia Cristiana fungeva da cuscinetto, mentre a partire dagli anni 2000 c'è stata un'esposizione molto forte della Chiesa. Ho sempre un po' paura l'idea di dire facciamo una presenza cattolica. Mi piacerebbe di più che i cattolici disseminati fossero il sale della terra nelle varie prospettive, nelle varie famiglie politiche, più che non una famiglia dei cattolici. Ecco, io tornerei a parlare di politica concreta, soprattutto di politica sul fronte della giustizia, in cui Giovanni Maria Flick è da sempre praticamente un grande esperto, l'ha praticata da magistrato, da giudice della Corte Costituzionale, da professore, da avvocato. Ecco, perché è un problema in Italia la giustizia? Solo perché c'è Berlusconi? No, anche, non solo ma anche, potrei dire, perché non siamo ancora riusciti a trovare un punto di equilibrio tra l'efficienza e la garanzia. Perché nel nostro paese, lei lo vede anche a proposito delle vicende di Expo 2015. Ecco, di cui tra l'altro lei è stato commissario. Sì, perché guardi, io ho fatto 2 esperienze uscendo dalla Corte che sono state molto interessanti, 2 servizi, li chiamerei così. Il primo, ho collaborato al salvataggio del San Raffaele, grande istituzione scientifica, medica e sanitaria, grande esempio di sperpero, di malgoverno e di abuso, tutte e due le cose. Siamo riusciti a salvarlo, tra l'altro dimostrando che la legge fallimentare, nonostante i problemi che ha, quando in mano a persone serie può funzionare. L'altra esperienza è stata quella di Expo, e cioè la delega del sindaco Pisapia per il controllo, soprattutto direi, della legalità, della regolarità, della sicurezza, in un campo che è veramente minato, perché di fronte alla torta, mi scusi certo, se parlo così, dell'Expo, prende l'idea, la criminalità organizzata si era preparata col tovagliolo al collo e il coltello e forchetta pronti a tagliare. Ecco, allora, qual è il rischio che c'è e che per fortuna viene controllato attraverso una serie di verifiche? Che anche qui si ricrei il cortocircuito tra la legalità e l'efficienza in un contesto di emergenza. Noi siamo un paese capacissimo di affrontare le emergenze. Speriamo. Speriamo, per Expo mi pare doveroso, necessario, però siamo anche un paese nel quale finché non si arriva all'emergenza non ci si muove. Quando si arriva all'emergenza c'è il rischio del cortocircuito tra una legalità considerata come impiccio burocratico, e qualche volta lo è, e un'efficienza che troppe volte è un grimaldello per superare la legalità. Ecco, ma perché non si riesce a fare una riforma della giustizia che dia efficienza, che renda più brevi i processi, che smaltisca l'arretrato, che ormai in Italia sono non so quanti anni per aspettare la sentenza? Perché per troppo tempo la giustizia è stata vista soltanto nella sua logica di missione, cioè la giustizia altissima, scordandosi che la giustizia è anche servizio e anche efficienza, e scordandosi che la giustizia ritardata finisce per diventare giustizia negata. E quindi abbiamo uno scompenso forte tra una domanda eccessiva di giustizia, tutti hanno diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri interessi, e una risposta che è inadeguata, anche se i nostri giudici e il personale sono più o meno gli stessi degli altri paesi europei. Solo che negli altri paesi europei la domanda di giustizia è molto meno intensa che da noi, e soprattutto vi sono strumenti, penso soprattutto alla giustizia civile, come la mediazione, come la risoluzione alternativa delle liti, che evitano di dover intasare la giustizia professionale ordinaria con le questioni condominiali. Quindi si può sperare che queste nuove formule... Si deve sperare e si deve convincerci tutti, io sono avvocato e lo dico quindi proprio come avvocato, dobbiamo convincerci tutti, prima di tutto noi avvocati, della necessità di utilizzare queste nuove formule, questi nuovi strumenti di risoluzione dei conflitti. Ecco, qualcuno dice che gli avvocati sono il maggior ostacolo alla riforma perché sennò perderebbero il loro lavoro. Però sono troppi gli avvocati pare. In Italia. Ecco, il problema è che un altro invece, che gli avvocati in Italia sono troppi e che andrebbero utilizzati sotto altre forme, ad esempio intervenendo nella mediazione delle liti, per esempio. Qualcuno dice che è colpa dei magistrati. Io credo che è colpa di tutti e di nessuno, è colpa del sistema. Finché non ci decidiamo a rimboccarci le maniche, a studiare delle soluzioni semplici, che poi sono molto più semplici di quanto possa sembrare a prima vista, continueremo a disputare dei massimi sistemi. Cioè corriamo il rischio di vedere la giustizia in una prospettiva solo autoreferenziale, come qualcosa che serve agli avvocati, ai magistrati, ai debitori per tirare in lungo e non pagare, agli imputati per portare il processo in prescrizione, e sfugge completamente la logica del servizio giustizia. Ecco, un servizio giustizia che però deve essere un impegno della politica in questo senso. E la politica forse ha visto la riforma della giustizia in una logica troppo politica, tra virgolette. Diciamo che la politica si è preoccupata solo di affrontare il tema del rapporto giudici politica, e spesso ha delegato ai giudici quello che non aveva voglia di fare o che non se la sentiva di fare. Pensi alla storia dell'Ilva, dove la politica ha lasciato marcire una situazione fino a quando non sono intervenuti i giudici. Pensi a un'ipotesi ancora più concreta: sovraffollamento delle carceri. Il carcere si sconta in condizioni disumane e subumane. Due giudici italiani, mi pare Padova e Monza, hanno chiesto alla Corte Costituzionale di introdurre un rimedio, allargando una norma che già esiste, per impedire al giudice di mandare in carcere colui che deve eseguire la pena quando le condizioni del carcere non sono umane. Ci sono dei precedenti della Corte Suprema degli Stati Uniti, del Tribunale Federale Tedesco, ma è l'ennesimo esempio di supplenza. Certo. Una politica che non sa affrontare il problema e lascia che lo affronti il giudice. Ecco, se potesse, sulla base della sua esperienza, attuare un provvedimento che possa andare nella direzione giusta per attuare questa, rendere più efficiente e più giusta la giustizia. Mi coglie impreparato. Forse la prima cosa che proporrei: generalizzare e rendere obbligatorie le cosiddette buone pratiche, che spesso e volentieri avvocati, magistrati e operatori, nella concretezza di tutti i giorni, trovano per risolvere i problemi. La seconda cosa che direi: meno centralismo e più federalismo in senso buono, cioè più valutazione dei problemi della giustizia e della loro regolamentazione a livello locale, se non altro perché i problemi del Tribunale di Bolzano, di Bressanone, e della domanda di giustizia di Bolzano e di Bressanone sono certamente diversi dai problemi e dalla domanda di giustizia di Caltagirone e di Caltanissetta. Un po' di sano federalismo anche in questo, forse. Sì, sano però, sano. Ecco, non federalismo tucculo. Grazie Giovanni Maria Flick per queste, anche per queste proposte, per questa analisi della situazione italiana fondata appunto su tanta buona volontà forse delle persone, sì, ma però con tanto scollamento anche sul fronte della politica. Grazie a Giovanni Maria Flick, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24 e come le altre puntate di questa rubrica Incontri, si possono trovare e sentire in podcast sul sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.